La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, siamo all'ora di cinema settimanale di Radio 24, settimana diciamo non densa di capolavori, ecco, per metterla subito in prosa, però insomma con qualche film da segnalare o da segnalare per la sua bruttezza, come è il caso del primo film che andiamo a narrare in questa nostra trasmissione, dove giocheremo come sempre insieme, sentiremo i protagonisti. Sarà con noi Roberto Minervini, regista di Louisiana, reduce dal Festival di Cannes. Parleremo anche di musical nella parte conclusiva, perché torna per tutta la stagione estiva, anzi fino all'autunno, a Milano Priscilla, tratto dall'omonimo film, lo ricorderete, Priscilla la regina del deserto. E allora dicevamo, colossal catastrofista, ma con catastrofe che riguarda soprattutto lo spettatore che si trova a vederlo. Sto scherzando, ma solo in parte, perché il film è un film dal quale si sa già cosa aspettarsi. Stiamo parlando di San Andreas, terremoti a manetta dall'inizio alla fine, il più grande terremoto che potete immaginare, che sconvolge e abbatte e sconquassa da Los Angeles a San Francisco, lungo appunto la faglia di San Andreas. Ma lui, The Rock, Dwayne Johnson, non può assolutamente morire, anzi fa resuscitare gli altri. Sentiamo. Comandante Gaines, lei ha portato a termine oltre 600 salvataggi. È un fuoriclasse. Questa fetta di terra verrà distrutta. Quindi l'intera faglia di San Andreas potrebbe muoversi. È esattamente questo che accadrà. Non c'è niente che possiamo fare per fermarlo. Dovete andare via. È subito, chiaro? Perché anche se sta avvenendo qui in California, si sentirà fino a New York. Papà, ti voglio bene. Non ti arrendere! Avete sentito un po' qual è il clima del film, che comincia appunto secondo i canoni del genere catastrofista, tra l'altro con una scena d'azione piuttosto ben riuscita, con una macchina sospesa in un crepaccio, nel quale crepaccio si infila un elicottero in diagonale, dal quale scende Dwayne Johnson con la mascella più quadrata che mai, col muscolo sempre più pronunciato. Ma dopo questo salvataggio la catastrofe è vera, perché da una parte la sceneggiatura prende una via melò che supera l'immaginabile, e le emozioni più forti sono proprio quelle dei terremoti, perché quando questi cominciano a parlare è davvero un disastro. È in collegamento con me Boris Sollazzo, al quale probabilmente il film ci sarà piaciuto molto, no Boris? Ma neanche un po', devo dire che a un certo punto, quando il terreno manca da sotto i piedi dei protagonisti, tu pensi che siano giustamente stati puniti per i dialoghi che hanno propinato allo spettatore fino a quel momento. Credo che San Andreas sia la stroncatura di se stesso, nel senso che appunto un film del genere poi non può che provocare una catastrofe naturale, perché è veramente eccessivo. Scherzi a parte, io ci so anche che si possa fare un film catastrofista, molto sentimentale e persino con Dwayne Johnson come protagonista, ma è un po' inaccettabile che dopo averne visti tanti si scopiazzi male i peggiori del genere e si arrivi a raccontare e a utilizzare degli effetti speciali per una sceneggiatura così, così scarsa, perché poi tra l'altro è l'illusione che San Andreas ti provoca a farti arrabbiare, perché le scene iniziali, diciamo la scena iniziale, la sequenza iniziale sono anche molto interessanti, sono una sorta di gioco di gatto con il topo del regista che va in cerca della catastrofe, di questo Big One che è la paranoia più assoluta della costa californiana e dintorni degli Stati Uniti. E quel momento è interessante, cioè come hai detto tu, quelle sequenze d'azione in cui il cattivo è il terremoto e il buono o Dwayne Johnson o chi appunto le vittime designate sono molto interessanti. E nel momento in cui però prende il faccione, il mascellone di Dwayne Johnson il potere e decide di invadere il grande schermo, che tu capisci che questo film non è altro che la parodia di un film catastrofista, senza però la consapevolezza di essere. Assolutamente, ma non riescono neanche a far morire un buono, cioè è una cosa pazzesca, cioè resuscitano piuttosto, e devo dire che hai detto bene tu, è la stroncatura di se stesso, io direi che addirittura la parodia di se stesso, cioè sembra di vedere lo scary movie di San Andreas praticamente, comicità involontaria che a un certo punto è talmente tanta che ti sembra volontaria. Sì, esattamente così, con la differenza che la computer grafica che all'inizio funziona, poi man mano diventa anch'essa sempre meno credibile, quindi anche a livello tecnico poi San Andreas ha un crollo, sembra brutto, tra tsunami e terremoti, insomma definirlo crollo, ma così è. Allora, insomma, abbiamo dato la benedizione a San Andreas, che comunque incredibilmente nel primo giorno di programmazione, giovedì, in Italia era primo in classifica, quindi insomma, poi giustamente la gente va magari anche per emozionarsi. Io dico che c'è dentro Paul Giamatti, ecco, che io adoro, ma che in questo film non avrebbe mai dovuto farlo, secondo me, nei panni di un sismologo che tendi ad odiare dopo 20 minuti. A questo punto sento come vanno le cose sulle strade, perché mi sembra che il traffico è piuttosto intenso. Ci sentiamo fra poco e parliamo di un altro film, secondo me sanamente popolare, che arriva dall'America, che si intitola Pitch Perfect 2. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta La Rosa Purpurea. Siamo in diretta dalla capitale, dove le Bellas della Barden University si esibiscono davanti al presidente degli Stati Uniti in occasione del suo compleanno. Non indossa le mutande. Oh, abbiamo un'emergenza, chiappe all'aria, si sta girando. No! Che appena arriva. Arrivano. Le Bellas sono sospese e siamo state rimpiazzate dai campioni germanici. Noi siamo le Dassault Machine. E adesso noi come facciamo? Non sono io quella che ha le idee, io sono quella fica. Ma non ero io quella fica? Se vinciamo la competizione mondiale ci riammetterete? Se vincete? Ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say, when I'm gone. Così cantava Anna Kendrick nel primo Pitch Perfect, successo clamoroso negli Stati Uniti, e devo dire che sta andando benino anche questo Pitch Perfect 2, che ha già superato di molto i 100 milioni di dollari di incasso negli USA. Commediaccia proprio di quelle messe lì per fare sganasciare dalle risate, per un pubblico popolare, come dicevo, ma con una sua coerenza. La storia di questo gruppo di canto a cappella, che evidentemente in America è una disciplina molto seguita anche dai giovani, tanto che nelle maggiori università, ma anche nelle minori, si creano gruppi appunto per questo canto solo vocale, che tessono i loro accordi solo con la voce. Ebbene, le Bellas hanno un piccolo incidentino che abbiamo sentito nella clip alla presidenza di Obama e della moglie, quando Ciccia Amy, la protagonista più in carne, diciamo, vede una rottura di stoffa nel punto in cui era meno indicato, diciamo così, e da quel momento vanno in disgrazia, hanno una sola possibilità di rifarsi, quella di provare a partecipare ai mondiali di canto a cappella che si svolgeranno a Copenaghen nell'estate successiva, e cercare di vincerli e di non essere espulse dalla scuola. Nel frattempo nuovi ingressi nel gruppo, qualcuno che invece vuole fare la carriera solista. Insomma, è un film di amiche, è un film al femminile, di ragazze al femminile, dicevo, ma è anche un film per far sentire le note, per far sentire la musica. Boris, dicevo, un film sanamente popolare, perché questo, in confronto a Dwayne Johnson e a San Andreas, ha il coraggio, secondo me, di osare, dopo il successo del primo, senza limitarsi, ma anzi schiacciando ancora di più l'acceleratore del kitsch, e a questo punto, come dire, rivendicando l'appartenenza a un genere che, se lì era quello di Scary Movie, qui è quello di American Pie. È bravissimo, è come se Step Up incontrasse American Pie insieme a tutti quanti quei film che vedono la McCarthy, come dire, protagonista, che in questo caso insomma diventerebbe Ciccia Amy, e quindi Rebel Wilson, parliamo chiaramente di un clone, ed effettivamente, con tutto che siamo sempre al limite della sopportazione, perché chiaramente il kitsch ha questo problema fondamentale, che devi saperlo cavalcare, devi saperlo domare, devi saperlo non far diventare trash o volgarità, e comunque alla fine è efficace, e di rischi se ne sono presi tanti, perché appunto il primo Pitch Perfect funzionava, aveva in qualche modo la voce e la faccia più accettabile di Anna Kendrick, ma anche uno sviluppo narrativo e visivo più classico. C'era il rapporto tra i sessi, c'erano i fidanzati, c'era un melodramma, anche se comico, più facile da portare avanti. Qui invece un film come Bachelorette e molti altri, tutto al femminile, femminista e femminile, ma anche fatto di cattive ragazze o comunque di ragazze che vivono un rapporto sostanzialmente esclusivo. Piace molto di più il momento in cui loro costruiscono un rapporto, raccontano qualcosa insieme e portano avanti anche quel tipo di comicità in maniera piuttosto cattiva, come succedeva per esempio in Bachelorette nella notte prima del matrimonio, facendolo in maniera corale. Meno efficace mi sembra, anche se capisco il successo che ha avuto in America, la struttura delle gag, cioè la gag in cui appunto Ciccia Emi mostra le sue grazie a Barack Obama, non fa ridere, non fa particolarmente ridere, anzi forse la faccia che fa il presidente è quella che fanno un po' tutti gli spettatori, anche se poi non si vede nulla. In quel senso sconta proprio il difetto di American Pie, in cui effettivamente quel portare avanti all'estremo quello che dovrebbe far ridere nasconde invece la parte più efficace del film. Interessante il debutto alla regia di Elizabeth Banks, che riesce a domare un animale che non avremmo mai immaginato che fosse capace di domare, cioè quello del kitsch e del trash, e quindi alla fine non è un capolavoro, però rende bene l'idea di che cos'è Pitch Perfect e regge il confronto con il primo capitolo proprio perché non vuole copiarlo, e questo già non è male, soprattutto se contando l'esordio di un'attrice come Elizabeth Banks. Assolutamente, che ricordiamo impegnata nella saga di Hunger Games. Allora, Pitch Perfect 2, noi andiamo a giocare insieme, come sempre facciamo ogni settimana, facendovi ascoltare dei frammenti misteriosi di un film. Un so mannino badalamente madone. E da me lo vuoi sapere? Tu solo sapevi non erano i picciotti. Allora, lo slang, diciamo, dovrebbe darvi una guida, una traccia. Diteci di che film si tratta, scrivendolo alla rosapurpure@radio24.it. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia e cercheremo di scoprire insieme appunto che film è, perché ci sono due copie del Blu-ray di questo film, che è un classicone del cinema italiano, che sveleremo la prossima settimana. Restate con noi, fra poco un'altra traccia. Adesso cambiamo sicuramente genere, clima e anche spessore cinematografico, trasferendoci, diciamo così, metaforicamente e anche a livello di immagini in Louisiana. There you go. When you're fighting, the only thing that matters is the man next to you. It's the man that's in the mud, that's in the blood, sitting right next to you and suffering with you. That's who you fight for, that's who you keep pushing for. Le lingue originali di Louisiana, The Other Side, di Roberto Minervini, che è in collegamento con noi. Ciao Roberto. Ciao, buonasera. Ciao, ben trovato qui alla Rosa Purpurea, film reduce dal Festival di Cannes, un film che racconta con uno stile veramente interessante una zona inesplorata, potremmo dire, dell'America, che è appunto questa comunità che vive veramente ai margini, spesso oltre i margini, in questo film. Allora cerco di sapere, di capire soprattutto e innanzitutto, Roberto, come sei arrivato alla scoperta di questa comunità che è appunto il cuore del tuo film di Louisiana. Sono comunità che conosco da anni, io vivo in quelle zone, vivo dietro l'angolo da queste comunità. I protagonisti del film, sia nella parte, nella, possiamo chiamare la prima parte, quindi del degrado e della tossicodipendenza, sia nella seconda parte, che è quella dell'insubordinazione, della sommossa antigovernativa, esistono, ci sono dei familiari della famiglia dei cowboy di Stop the Bleeding Heart, quindi diciamo ci sono arrivate queste comunità comunque attraverso una corsia preferenziale, che è quella appunto dell'amicizia con i loro familiari. Ecco, il tuo film, vedere il tuo film mi ha ricordato molto l'esperimento che è stato fatto qualche anno fa negli Stati Uniti con Re della Terra Selvaggia, no? Ricorderai, cioè andando a scavare dietro qualcosa che il cinema americano non mostra. Secondo te perché il cinema, che spesso è oggi il mezzo che va più in profondità alle cose quando viene usato in un certo modo, molto di più della televisione, spesso anche di più dei giornali per raccontarti una realtà, perché il cinema americano, non dico quello mainstream, ma anche quello indipendente, fatica un po' a cercare, a trovare e a raccontare queste storie? Perché raccontare queste storie inevitabilmente significa spostare l'asse sul discorso politico. Significa comunque fare un discorso politico, o se non farlo in prima persona, direttamente, comunque stimolare un dibattito politico. Un dibattito in questi casi, nel caso di questa America comunque sommersa, il dibattito politico è un dibattito scomodo. L'America è il paese del savoir faire, l'America è il paese nel quale si evita lo scontro politico, paradossalmente, perché l'America poi cerca lo scontro bellico altrove. Quindi è il paese in cui lo scontro politico, visto come il dibattito politico, è visto come deleterio. Quindi non è, e poi c'è tutto il discorso di mercato. Fare film così in America è una mossa suicida per la carriera di un cineasta. Non è un caso che io sono un cineasta italiano e comunque prodotto dall'Italia e dalla Francia. Certo, però è vero anche che Re della Terra Selvaggia aveva avuto poi grandi acclamazioni, perché poi il cinema americano è anche molto capace di impadronirsi, no? Di tutto quello che si muove sotto il livello del terreno e di farne affari. Quindi forse ci si poteva aspettare in qualche modo, no? una maggiore attenzione a questo tipo di operazioni. Tu, tra l'altro, rispetto a Stop the Pounding Heart, hai anche lavorato forse un po' di più sulla drammatizzazione, cioè c'è un filino di più di lavoro sugli attori / protagonisti di questo film? Sì, c'è un lavoro in più. Io non volevo limitarmi, comunque l'avevo già fatto con Stop the Pounding Heart, non mi ero limitato al lavoro etnografico, al lavoro di pura osservazione. Per me era necessario, ripeto, soprattutto in questo caso ero conscio del fatto che avrei comunque instaurato, cioè volevo instaurare un dibattito di tipo politico, e per farlo dovevo, così detto sembra banale, ma raccontare una storia, non limitarmi ad osservare. E per raccontare una storia, pur facendo lavoro di osservazione, non di regia di attori o personaggi, perché loro sono stati liberi di fare e disfare nelle varie situazioni poi riprese, però era necessario per me collegare queste situazioni, quindi utilizzare il veicolo della finzione, a volte, come tutti i momenti di transizione, penso alle camminate, penso al lago, alla barca nel lago, penso a tutti i momenti anche di pausa, sono il mio veicolo narrativo per poi raccontare una storia in un modo più complesso. Non volevo fare un lavoro etnografico in questo caso. Poi, quando parli del selvaggio, ti riferisci a Beast of the Southern Wild? Assolutamente, ecco, non riuscivo a capire. Beh, certo, se mi permetti una piccola parentesi, quello è un lavoro fatto nella Louisiana del Sud. Certo è che un lavoro come quello, che arriva a delle candidature Oscar, è un lavoro comunque fatto, per quanto mi riguarda, con un occhio di distacco dei bianchi artisti che lavorano su una tragedia comunque di impatto nazionale, quindi comunque ben accetta, guardano con un occhio comunque distaccato. Racconta una storia dei neri, ci trovo una certa differenza anche dal punto di vista, insomma, etico. Però questa è una parentesi che chiudo subito. Assolutamente no, ma ci sta perfettamente. È vero che lì c'è sicuramente più l'idea di arrivare a un pubblico che però magari all'inizio nessuno pensava così ampio, ecco, in quello, e poi nell'esplorazione di comunque di una marginalità, certo, trattata in maniera lì sicuramente più drammatica, con un copione, come dire, scritto in maniera più da recitare, ecco, rispetto sicuramente al tuo cinema, ma ci sta perfettamente la differenza che hai sottolineato tu. Roberto, grazie per essere stato con noi. Ricordo comunque che Louisiana è nelle maggiori città italiane, quindi un film assolutamente da non perdere, da andare a vedere, e noi ci risentiamo la prossima volta, alla prossima occasione. Grazie a voi. Linea alla regia, fra poco torniamo, ancora un paio di film, a partire dal fascino indiscreto dell'amore. La rosa purpurea. Siamo ancora qui alla Rosa Purpurea, ci sono ancora un paio di film fra quelli che sono usciti questo fine settimana. E io voglio segnalare intanto uno di cui non vi facciamo ascoltare suoni, perché i suoni li ha, ma sono solo quelli della colonna sonora originale, dei rumori, perché è un film incredibile in questo senso, tutto recitato nella lingua dei gesti, nella lingua dei sordomuti. Si chiama The Tribe, si svolge in Ucraina, dove Sergei, appunto, un giovane sordomuto, ha un impatto piuttosto duro nell'istituto dove tra l'altro è destinato a restare a lungo, bullismo, capibanda spietati, e il tentativo anche, come dire, di sfuggire a una realtà forse dentro di sé, forse fuori di sé, per riuscire a campare in una maniera, come dire, normale. È un lungometraggio che può davvero cambiare e imprimersi nella memoria dello spettatore, perché è una esperienza proprio visiva notevolissima. Io questa ve la voglio segnalare. Anche questo è un film che è uscito in non tantissime sale, ma insomma nelle principali città lo potete trovare. Si intitola The Tribe. Per quanto riguarda invece la nostra prossima segnalazione, parliamo del fascino indiscreto dell'amore. Film, appunto, che già dal titolo declina il suo aspetto più sentimentale, ma che non è solo questo. Sentiamo la clip. Avevo 20 anni e volevo essere giapponese. Era il solo scopo della mia vita. Konnichiwa, konnichiwa. Volevo anche diventare una scrittrice. Così un giorno ho comprato un biglietto di sola andata per Tokyo, per diventare finalmente quello che sapevo di essere malgrado le apparenze. Una vera giapponese. Sono l'insegnante di francese, sì. E avevo un allievo. Bonjour, Amélie. Le lezioni di francese diventarono piuttosto una sorta di tour organizzato di Tokyo. La Tokyo di Rinri. Sembra quasi incredibile. Ogni volta che il cinema vuole, il cinema francese soprattutto, vuole raccontare un personaggio femminile incantato, lo chiama Amélie. Vabbè, comunque anche in questo caso succede. Amélie, come avete sentito dalla clip, nata in Giappone, cresciuta in Belgio, ma lei si sente totalmente giapponese, vuole essere giapponese. Il suo impatto però con il paese del Sol Levante darà un responso diverso, sarà l'impatto che c'è fra il luogo mitizzato e il luogo reale, fra i problemi veri e quelli che si sono sempre eliminati dal proprio orizzonte. La vita di Amélie ovviamente cambierà definitivamente. Boris, una commedia sospesa che però ha il pregio di raccontare, magari con qualche manchevolezza, però di raccontare il rapporto con il mito, il rapporto con quello che ognuno di noi prima o poi ha avuto, cioè il mito per un paese, per un'appartenenza che magari non è la propria. Sì, quella cosa più interessante forse è l'incrocio di biografie che c'è nel film, cioè quella del regista che racconta, e poi vedrete in che modo, il momento in cui nel 2011 si è trovato a fronteggiare una catastrofe naturale in Giappone, e quello di Amélie Nothomb, da cui è né di Eva né di Adamo, da cui è tratto il film. Questo incrocio di biografie fa sì che un racconto che era un racconto piuttosto stucchevole su una donna che cercava se stessa all'inseguimento di un sogno, e invece diventa qualcosa di più forte, di più animato, di più potente, anche di più melodrammatico, per carità, perché chiaramente Amélie, pur non arrivando alla Poulaine, è comunque una ragazza piena di sogni, è una ragazza piena di illusioni, è una ragazza che comunque cerca la favola all'interno della propria vita, perché è una favola che si è raccontata per tutta la vita, appunto, nata in Giappone, vissuta in Belgio e poi tornata in Giappone per trovare un Giappone che lei aveva mitizzato, come molti hanno mitizzato, perché figlio di una letteratura e di vari stereotipi. Anche il racconto degli stereotipi in questo film ha una sua delicatezza, una sua sensibilità. Il film non è straordinario, perché spesso e volentieri cade in qualche dolcezza di troppo, in qualche scorciatoia di troppo, però è un ottimo film, è un film molto solido per raccontare una sorta di formazione al contrario, una sorta di risveglio dalle proprie sogni, dai propri sogni, che può essere un risveglio ancora più piacevole, perché quando il sogno diventa realtà può trasformarsi in incubo, invece quando la realtà in qualche modo diventa un sogno, questo fa sì che si scopra anche il fascino discreto dell'amore. E quindi in questo senso è un film che ti accompagna, che ti accarezza e che, pur non avendo picchi straordinari, è probabilmente la scelta migliore per una coppia. E allora, questo per quel che concerne appunto il fascino indiscreto dell'amore. Noi abbiamo invece da farvi sentire la tranche, il frammento molto discreto del nostro film misterioso. Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza d'uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri. E allora, discreto fino a un certo punto, perché è molto riconoscibile. La Rosa Purpurea @radio24.it, come sempre scriveteci il film da cui secondo voi è tratto questo frammento e anche il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. Allora, segnalo un altro film, perché le uscite sono tante questa settimana, sono una decina. Si intitola Pizza, scritto con la TZ, Pizza e Datteri, un gioco di parole ovviamente, con Fariborz Kamkari, con Beppe Battiston, un film che racconta di una piccola comunità islamica di Venezia che deve... mettere di fronte il sacro e il profano, diciamo, nel senso che il luogo dove è solita pregare ha lasciato il posto a un parrucchiere gestito appunto da una musulmana progressista. Insomma, siamo in maniera abbastanza grottesca, però, a raccontare ancora una volta l'impatto fra due culture. La presenza di Beppe Battiston comunque è sempre attrattiva, almeno per quanto mi riguarda, rispetto a un film. Quindi questa è un'altra delle uscite di questo weekend, ma io voglio chiudere le nostre segnalazioni con lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, film di Jean-Pierre Jeunet e con Helena Bonham Carter e Judy Davis nel cast. Sentiamo la clip. Nella famiglia Spivet ciascun membro è fuori dal comune. No! Non toccate i miei coleotteri giapponesi! Mio padre ha l'anima, la statura e la mentalità di un cowboy. Mia madre invece pensa di essere una grande naturalista. Quanto a mia sorella Gracie, sogna di diventare una star. Poi ci sono io, T.S., il prodigio, la mente scientifica. E infine mio fratello gemello Layton, lo spericolato. T.S. Spivet, la sua invenzione ha vinto il nostro prestigioso Bird Award. Wow! Mi hanno scambiato per un adulto. Il viaggio mi terrorizza, ma è deciso. Domani parto per Washington D.C. Boris, ci sono un paio di ricorsi e di quei nodi che crea il cinema che sono piuttosto interessanti. Uno è Jean-Pierre Jeunet, quindi abbiamo parlato poco fa di Amélie, della famosa Amélie, e adesso eccolo il regista di quella Amélie in questo nuovo film che ancora una volta ha un po' il tono della fiaba, che poi è quello che più si addice a Jean-Pierre Jeunet. L'altro, che il protagonista di questo film è un ragazzino di 10 anni, super intelligente, che di fatto vince un premio che deve andare a ritirare, ma il prestigioso istituto Smithsonian che gliel'ha concesso non sa che si tratta di un bambino. Parte questa avventura, una sorta di road movie del bambino, insomma, contro le avversità che un viaggio di questo tipo può provocare. E in questo il bambino super intelligente che può riscattare se stesso e anche un po' il mondo ricorda un po' quello di Tomorrowland, uscito solamente una settimana fa. Insomma, sono gli intrecci che la programmazione cinematografica ci offre. Sì, no, è vero, ci sono tante cose che sembrano parlare al resto della programmazione e in fondo non è sano, perché ce n'è uno che parla tantissimo con il resto del cinema. È un citazionista non nel senso più triviale del termine, ma nel senso che nelle sue atmosfere racconta tanto del cinema che gli è piaciuto, in particolare del cinema classico. Quello che non ti aspetti da lui è che, dopo averlo fatto con la guerra, dopo averlo fatto con un modo di raccontare il melodramma francese, lui lo potesse fare con il western, perché di fatto questo viaggio non è altro che il rovesciamento del mito della frontiera, del viaggio verso il west. In questo caso appunto c'è questo bambino che, per prendere un premio, deve per forza affrontare un viaggio che, come diceva appunto nel trailer, lo terrorizza, perché è solo un bambino, e quindi chiaramente tutto sono perché cowboy. E anche nel racconto di questa carovana, perché di carovana si tratta, anche se molto particolare, il racconto è ironico, è divertente, è dolce. Il film secondo me ha i pregi e i difetti dei film di Genet. Genet, se lo conosci e lo ami, te ne innamori, se lo conosci invece lo odi, difficilmente riesci ad arrivare alla sua poetica, perché Genet ha sempre quella mano ingenua, innocente, infantile, che in un cinema scafato come quello di adesso, perdonatemi la definizione non proprio perfetta, spesso viene considerato un cinema debole, un cinema fragile, ma lui la sa raccontare questo tipo di storia con delicatezza, con sensibilità e senza mai apparire semplicistico. Quindi ecco, se volete abbandonarvi al racconto di questa carovana, al racconto di questo viaggio e anche delle perdite, delle conquiste che questa carovana farà, andate con Genet. Se invece vi sentite troppo disillusi, allora forse questo film non vi convincerà. La verità è che Genet è sempre uguale a se stesso, continuando a cambiare, perché continua a cambiare genere, ma racconta sempre la stessa storia. Assolutamente, assolutamente, verissimo. Boris, grazie per averci raccontato anche oggi la tua versione della programmazione cinematografica. Ci sentiamo la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana e buon cinema. Viabilità, fra poco torniamo, sarà con noi Riccardo Sinisi, uno dei protagonisti del musical Priscilla sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci alla Rosa Purpurea, fra poco tutto il cinema da vedere in casa con gli amici di Film TV. Prima però abbiamo detto il musical Priscilla, la regina del deserto, torna al Teatro Manzoni già dal 27 maggio fino al 4 luglio e poi fino al 27 ottobre, insomma lo spettacolo per Expo, uno degli spettacoli, uno dei tanti musical. Tra l'altro ritornerà anche il prossimo fine settimana Jesus Christ Superstar con Ted Neely al Teatro Nuovo. Chiaramente il pubblico internazionale di Milano in questo momento ha bisogno anche di spettacoli internazionali per passare le sue serate post Expo. E allora Priscilla, tratto da un film musical, tratto proprio dal film Priscilla, che in questo caso è il pezzo originale presentato al Festival di Cannes nel 1994 per la regia di Stephen Elliott, lo ricorderete, con Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce. La storia di questi tre travestiti che attraversano l'Australia per andare a trovare il bambino di uno dei tre, e che a suon di hit della disco music degli anni 70-80 fanno incontri, trovano amori, insomma cambiano forse qualcosa nel rapporto tra se stessi e dentro se stessi. Allora, noi abbiamo sentito uno dei protagonisti del musical sul palco del Manzoni, cioè l'attore che recita il ruolo di Felicia barra Adam, perché poi sono tutti ruoli chiaramente come Tic Mizzi, sono ruoli con due facce. Si tratta del ruolo che nel film era quello di Guy Pearce. Riccardo Sinisi è il protagonista sul palco del Manzoni, dicevo. Gli abbiamo chiesto quanto si sia ispirato a quella figura, a quella prova di Guy Pearce nel film. Sicuramente un minimo mi sono ispirato, anzi un minimo tanto. Guy Pearce era molto fisico, molto antipatico anche per alcuni versi, molto pungente. Io ho preso alcune cose, diciamo che sono molto pungente, cerco di non essere però antipatico, perciò è più una battuta sì affilata, ma mai eccessiva, e diciamo mantenuto quel fatto della fisicità e della essere così corporeo in Felicia. Peraltro il musical teatrale aggiunge qualcosa di più alla performance in termini proprio fisici. Nel film lui non cantava, non ballava, perciò poi mi sono cercato anche di ispirare, in realtà essendo il musical diverso rispetto al film, per alcune cose ho cercato comunque di ispirarmi anche molto di più alla versione teatrale, perciò in realtà ho guardato sì il film, mi sono ispirato, ma devo dire che la mia linea guida è stata di più altre versioni teatrali, e poi ho lavorato con il regista per trovare una mia interpretazione, per non fare la copia di nessuno. cioè, se la mia Felicia è unica al mondo. Assolutamente unica al mondo. Riccardo, 20 anni fa il movimento omosessuale cercava diritti, sostanzialmente, era in piena rivoluzione dei diritti, una ricerca che è ancora aperta, almeno in parte. Ha ancora una sua attualità questo spettacolo? Io credo che Priscilla, ahimè, e questo è davvero una cosa spiacevole, sia attuale oggi come 20 anni fa, per diverse ragioni. Nel senso, alcune sono sfortunatamente negative, perché in 20 anni in Italia si sono fatti dei passi avanti in fatto di diritti omosessuali, parlo di omosessualità perciò molto in maniera aperta, perciò transessualità, in Priscilla si parla appunto di omosessualità, di transessualità, di travestitismo, si parla, però si parla anche di famiglia, di omogenitorialità, si parla di amicizia, e mentre fa temi come la famiglia, come l'amicizia, sono assolutamente, non passeranno mai di moda, sarebbe stato bello che in 20 anni temi come l'omofobia, come la transfobia, come determinate, come altri temi dovrebbero essere già passati di moda, come in gran parte del mondo, in gran parte dell'Europa sono. Riccardo Sinisi alla Rosa Purpurea per Priscilla, il musical sul palco del Teatro Manzoni di Milano. È arrivato il momento di svelare il nostro game, il nostro film misterioso della scorsa settimana. Quello là dovrebbe essere il vostro amico, solo un mucchietto di frattaglie. Frammenti umani, tutti bruciati. Volevo dire così. Si trattava di Mad Max Interceptor 1979, uno dei film contenuti nello straordinario cofanetto Blu-ray che riceveranno i nostri ascoltatori Paolo di Genova e Miro Salvi di Paladina, provincia di Bergamo. Saranno loro a vincere e a ricevere questo cofanetto Blu-ray che mette insieme la saga di Mad Max, visto che poi con Fury Road la saga è ritornata ad attualità cinematografica qualche settimana fa. È con noi a raccontarcela Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, per celebrare il genio action furente di Mad Max Fury Road è bene recuperare i primi 3 capitoli della saga, una saga che sembrava finita 30 anni fa ed era cominciata con $300,000 vinti a un concorso per registi dilettanti, poi trasformata in una macchina da incassi gigantesca in un film che hanno ridisegnato il genere post-apocalittico. La Warner fa uscire i 3 film in versione singola, appunto come dicevi, in un cofanetto da 3 dischi, accolti in una custodia metallica meravigliosa, tutti restaurati e trasferiti con precisione, con il commento di George Miller e del suo direttore della fotografia come extra, e un'introduzione del leggendario critico Leonard Maltin. Una cosa da avere assolutamente, insomma, nella propria biblioteca. Assolutamente un pezzo per amatori. Giulio, come sempre, un'occhiata ai palinsesti TV della prossima settimana, a partire da lunedì 1 giugno, quando abbiamo parlato prima di musical. Questo è un musical un po' sui generis, ma un pochino lo è Cesare deve morire dei Fratelli Taviani. Sì, è lunedì alle 16:10 su Rai 5, è veramente la storia di un processo creativo. Il regista Fabio Cavalli, nel carcere di Rebibbia, cerca di mettere in scena insieme ai detenuti il Giulio Cesare di Shakespeare. I Taviani filmano in un bianco e nero che sta tra l'irrealismo e il tableau vivant, ma questo appunto non è assolutamente un semplice documentario, perché oltre a recitare i versi del bar, i detenuti sembrano provare a recitare anche se stessi, usare quindi l'arte del teatro per scandagliare il proprio inconscio, la propria storia e trovare una catarsi. Ne esce veramente un documentario che è un gioco di fiction di scatole cinesi, un film veramente molto potente, molto bello da recuperare anche questo. Ricordiamo quindi l'appuntamento su Rai 5 alle 16:10 di lunedì, mentre martedì un altro film che ha segnato un pezzo magari non conosciutissimo della storia del cinema italiano degli anni 80, I Cammelli di Giuseppe Bertolucci. Sì, alle 3:30 di martedì su Italia 1, quindi nella notte tra martedì e mercoledì, è uno dei più bei film di Giuseppe Bertolucci, che come dicevo appunto è un autore marginale, poco conosciuto, decisamente peculiare del nostro cinema, uno sperimentatore del linguaggio, amatore di toni molto surreali e di una satira stralunata con protagonisti che quasi sempre sono capocomici. Qui racconta la storia picaresche folle di un uomo dimesso, esperto di cammelli, che partecipa a una trasmissione TV e sfruttato da un impresario come fenomeno da baraccone, e finisce alla fine in un gioco di inganni amorosi in cui si innamora. Un film veramente poetico e fuori misura, come la piccola trama che vi ho raccontato, e sembra stare su quel ramo dell'albero genealogico del cinema italiano in cui ci sono i Fellini e Sergio Citti. È veramente un piccolo cult molto bello. Da recuperare su Italia 1 alle 3:30 del mattino fra martedì e mercoledì, I Cammelli. Grazie Giulio San Giorgio, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della nostra Silvia ci raccontano che è finito il tempo a nostra disposizione, quindi l'appuntamento con il cinema va alla settimana prossima. Un saluto da Franco D'Assisi.